giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Deferito in stato di libertà il presunto responsabile dell'accoltellamento di ieri a Lignano è un 28enne albanese residente ad Azzano Decimo. Ha ferito due fratelli, di cui uno è ricoverato a Udine con lesioni gravi. Secondo la CGA di Mestre, tra marzo 2022 e marzo 2023 i risparmi delle famiglie del Friuli Venezia Giulia si sono ridotti di 276 milioni di euro a causa dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse. A Piancavallo oggi e domani la scuola amministratori organizzata da Fratelli d'Italia, un weekend di formazione dedicata a iscritti al partito e simpatizzanti. Oggi è la giornata europea dell'archeologia, da cui lei ha visite guidate con esperti e aperture straordinarie. A Trieste visitabili l'antiquarium e la basilica paleocristiana. I vitini resistenti agli agenti patogeni e che non hanno bisogno di trattamenti chimici o naturali per contrastare le problematiche più diffuse ora si coltivano anche in regione. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. È dunque un 28enne albanese residente ad Azzano Decimo il presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto ieri a Lignano Sabbiadoro in Viale Venezia, in cui sono stati feriti due fratelli, anche loro albanesi e residenti a Fiume Veneto. Uno, un 28enne, è stato ricoverato all'ospedale di Udine con lesioni gravi e profonde al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Meno gravi le lesioni riportate alla testa dal secondo aggredito, un 26enne. I carabinieri di Udine, che subito dopo l'accaduto hanno controllato le videocamere di sorveglianza e raccolto testimonianze, in poche ore sono riusciti a individuare il presunto autore dell'aggressione e a deferirlo in stato di libertà per lesioni. Ancora in accertamento le cause del fatto. Nella località balneare si tratta del terzo accoltellamento nelle ultime due settimane. Ancora cronaca, un uomo di 78 anni è stato aggredito questa mattina da un cane di grossa taglia a Trieste, nella pineta di Barcola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9. Il cane ha procurato all'uomo una ferita all'avambraccio che ha interessato anche i tendini. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Inflazione e aumento dei tassi di interesse hanno ridotto i depositi bancari delle famiglie del Friuli Venezia Giulia di 276 milioni di euro, a dirlo l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha preso in esame il periodo tra marzo 2022 e marzo 2023. L'inflazione attestata oltre il 7% su base annua e i tassi di interesse che vanno verso il 4% facendo rincarare i mutui hanno costretto in molti casi le famiglie ad intaccare i risparmi custoditi in banca che avevano visto un netto incremento con la prima esplosione del Covid. È la lettura della CGA di Mestre dei dati della Banca d'Italia che parlano per la nostra regione di un calo dei depositi delle famiglie pari a 276 milioni di euro, l'1,1% in meno, nel giro di 12 mesi tra marzo 2022 e marzo 2023. Anche così, comunque, in banca le famiglie della regione continuano ad avere oltre 25 miliardi e 200 milioni di euro. Le famiglie che in media hanno intaccato in maggior misura i depositi, sempre secondo lo studio della CGA, sono quelle del Goriziano, un calo di oltre il 2%, con oltre 54 milioni in meno sui conti correnti. Seguono Pordenone con circa l'1,6% in meno e Udine con un calo dell'1,2%, in controtendenza Trieste, dove i depositi bancari sono invece aumentati di mezzo punto percentuale. A livello nazionale la sforbiciata più pesante l'hanno subita i cittadini del Piemonte, che hanno intaccato il 4,7% dei propri depositi bancari. In controtendenza ci sono Sardegna, Molise e Basilicata, dove i depositi, sia pur di poco, sono cresciuti. La media nazionale è del 2,2% in meno, con 25 miliardi e 267 milioni complessivi tolti dai depositi bancari. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 100 fra iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia seguono oggi a Piancavallo la scuola amministratori, una due giorni di formazione organizzata dal partito. Sentiamo Emanuele Loperfido, parlamentare di Fratelli d'Italia e ideatore dell'iniziativa. Cosa si insegna in questa scuola di formazione politica di Fratelli d'Italia? Ma innanzitutto siamo molto soddisfatti, un centinaio di amministratori per una provincia che conta 50 comuni, quindi questo dimostra sia la volontà di imparare che anche il radicamento che questo partito sta avendo sempre più sul territorio. La volontà è quella di, appunto, una volta vinte le elezioni, dimostrare alla gente che siamo in grado di realizzare un programma grazie al fatto di essere preparati. Ecco allora la necessità di una formazione costante. Una formazione soprattutto su regole e su come funzionano i bilanci? Ma diciamo che tutti hanno una loro professione. Nel momento in cui si ha a che fare con la macchina pubblica si capisce che ci sono meccanismi diversi. Consiglio comunale, una giunta, che ruoli ha un amministratore, un dirigente, un assessore, un consigliere comunale. Sono tutti atti amministrativi molto importanti. L'importanza del capire i ruoli aiuta a sapere attuare meglio il programma amministrativo. Questo funziona anche in Parlamento. Lei ha fatto tanti anni l'amministratore, ora appunto fa il parlamentare. È sicuramente importante che chi oggi siede in Parlamento abbia fatto l'amministratore per capire fino in fondo quanto una norma approvata in Parlamento possa essere realizzata dagli amministratori. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Apparentemente si è trattato di una partita a scacchi, di fatto la scoperta di un parco, quello di Villa Sartorio, poco noto ma prezioso, specie in un'area, quella della Maddalena di Trieste, molto cementificata. A organizzare l'evento adesso Trieste, in collaborazione con il Comitato Maddalena Vive, che da tempo chiede al Comune di realizzare un anello verde intorno al quartiere, curando maggiormente i parchi esistenti, ma lavorando insieme all'ATE per costruire nuove nelle aree dismesse. La prossima settimana è previsto un incontro in comune proprio su questa attività di rigenerazione urbana. Quella di oggi è un'intera giornata alla scoperta del quartiere. Stamane a Villa Sartorio, nel pomeriggio al giardino Pinkerle. Sono le 12.37, passiamo al meteo, il cielo è da sereno a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, il mare calmo con temperatura di 21 gradi, a Gorizia 25, a Udine 24 gradi e mezzo, a Pordenone 23 gradi e 5 decimi, in Aramontana Tolmezzo 23, Forni di Sopra 19 gradi e 5 decimi, Tarvisio 22, Biancavallo e Sappada 17, in quota su Monte Lussare 12, sul Monte Zoncolan 14 gradi e mezzo. Sulla costa a Legnano 25 gradi e a Grado 22 gradi e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 23 gradi. Le previsioni dal pomeriggio sulla zona montana: avremo cielo poco nuvoloso variabile, saranno possibili rovesci o temporali sparsi che potrebbero interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Domani al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio sulla zona montana e sulla pianura cielo poco nuvoloso variabile. Sulla zona montana nel pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali sparsi che potrebbero interessare anche alcune zone dell'alta pianura. Venti a regime di brezza. All'Università di Trieste si sta per concludere la seconda e ultima giornata di una 2 giorni dedicata all'etica del rapporto tra famiglia e bambino malato. Organizzatore dell'appuntamento, la consulta bioetica Onlus. La dottoressa Lucia De Zen, responsabile delle cure palliative pediatriche in Regione Friuli Venezia Giulia, indossa la maglietta del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, una bellissima iniziativa composta da 60 e più eventi che si concluderà domani per sensibilizzare su questo tema di cui così poco si parla. Dottoressa, lei vive di cure pediatriche palliative, ci aiuti ad avere per un secondo la sua prospettiva della vita avendo lei scelto questo mestiere? Occuparsi di bambini eleggibili alle cure palliative pediatriche vuol dire occuparsi di bambini che hanno malattie inguaribili, che hanno molti bisogni clinici, psicologici, sociali, etici, spirituali e che hanno un rischio di morte precoce. Noi ci affianchiamo a tutti gli specialisti, sia ospedalieri che territoriali, per creare una rete, per creare un abbraccio proprio da pallium a mantello attorno al bambino e alla famiglia, per fargli vivere la quotidianità al massimo delle potenzialità con la malattia. Quindi le cure palliative pediatriche sono le cose più lontane rispetto alla morte e al fine vita. E questo è stato anche uno dei temi di questo Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, iniziato il 15 maggio con una conferenza stampa presso il Ministero della Salute a Roma, in cui abbiamo illustrato i miti e invece i veri obiettivi delle cure palliative. Il mito è le cure palliative pediatriche è il bambino che muore. No, è un bambino che vive con la sua malattia, vive al massimo delle sue potenzialità. E poi vi invito ad andare nel sito della Fondazione Maruzza, che è la fondazione che ha promosso questi eventi in tutta Italia, e dove sono illustrati proprio i miti, i limiti e i vantaggi delle cure palliative pediatriche. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La soprintendenza archeologica delle Belle Arti del Paesaggio del Friuli Venezia Giulia aderisce alle giornate europee dell'archeologia organizzando in diversi eventi sul territorio regionale, ad Aquileia apertura straordinaria di Casa Bertoli e visite guidate ai cantieri di scavo per conoscere le ultime scoperte e i risultati delle indagini più recenti, a Pordenone apertura straordinaria della Villa Romana di Torre. In provincia di Trieste questa mattina si è potuta visitare la Grotta del Dio Mitra Duino Aurisina, ma anche l'antiquarium di via del Seminario, al cui interno si trovano le mura tardo-repubblicane volute da Ottaviano, e la basilica paleocristiana di via Madonna del Mare. Un tratto delle mura fatte erigere da Ottaviano nel 33 a.C. per difendere la colonia romana di Tergeste, arroccata sulla cima del colle di San Giusto. Alla base si vede anche il canale che convogliava le acque piovane e una vasca pavimentata in cotto, probabilmente impiegata nella lavorazione dell'olio. Nella giornata europea dell'archeologia, con diversi siti aperti in tutta la regione, visitiamo l'antiquarium di via del Seminario a Trieste, aperto in realtà tutti i sabati mattina, 2 ore, ingresso gratuito. Un'opportunità in più per i turisti in visita, ma anche per i triestini alla riscoperta della propria città. Sempre a Trieste, ma solo domattina, aperta la Basilica Paleocristiana con la pavimentazione a mosaico con motivi policromi e geometrie bianche e nere. Aperta stamane anche la Grotta Carsica del Mitreo a Duino Aurisina. Ad Aquileia fino a stasera sarà possibile visitare la Casa Bertoli e naturalmente archeologi, studiosi e restauratori aspettano i visitatori agli scavi di Aquileia per raccontare i risultati delle indagini più recenti condotte nel sito. A Pordenone domani mattina apertura straordinaria con percorso assistito alla Villa Romana dentro al Parco del Noncello, caratterizzata da un impianto termale esempio romano di insediamento produttivo e residenziale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Con la definizione di viti resistenti si indicano coltivazioni di vitigni resistenti appunto agli agenti patogeni e che non necessitano quindi il ricorso a trattamenti chimici o naturali per contrastare alcune delle problematiche più diffuse, una soluzione che ora è percorsa anche in regione. Di fronte alla peronospora e all'oidio, che sono le malattie più frequenti e dannose per la vite, i coltivatori possono adottare sostanzialmente 3 soluzioni. La prima è la coltivazione convenzionale con trattamenti chimici sintetici irrorati alla pianta dalle 8 alle 13 volte. La seconda è la via biologica con trattamenti esclusivamente naturali come rame e zolfo distribuiti in 12-18 passaggi. La terza è la coltivazione di viti resistenti che riescono a neutralizzare gli agenti patogeni grazie ad un incrocio tradizionale con impollinazione controllata tra la Vitis vinifera europea e le selezioni di vite americana ed asiatica che contengono nel patrimonio genetico i fattori di resistenza. Queste viti dunque non sono OGM perché ottenute per semplice impollinazione. Raffaele Testolin, agronomo dell'Università di Udine. Viti resistenti ovviamente non significa viti immuni. E nemmeno resistenti per sempre, perché la vite deve attivare nuove resistenze per controllare il patogeno. Non trattando per peronospora e oidio, dobbiamo controllare con 2 o 3 trattamenti altri patogeni come il black rot che possono venire fuori se le viti non vengono trattate. Le viti resistenti però hanno nuove denominazioni e nuove caratteristiche ancora poco note al consumatore e proprio per questo al momento sono pochissimi gli imprenditori lungimiranti che si affidano a queste tipologie. Uno di questi è Renato Della Casa di Cormons. Sono tutti in ogni caso dei figli di parentali nobili che possono essere il Merlot, il Sauvignon, il Tokaj Friulano, il Cabernet eccetera. Per esempio il Sauvignon Cretos chiaramente prende entrambi i nomi. Ce ne sono altri invece come il Flirtai o il Sorelli che pur essendo derivati dal Tokaj Friulano hanno un nome diverso e a livello di risultato anche proprio di vino un'identità propria. Cormons, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti di oggi. La partita della vita, iniziativa calcistica di raccolta fondi per l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno Andos, a cui parteciperanno ex giocatori di serie A e B e una delegazione di allenatori del Friuli Venezia Giulia, in programma a Gorizia allo stadio Berzot alle 20:30. propone un'installazione artistica immersiva, il progetto Crevaduris, che ha come obiettivo l'eliminazione del tabù sul dolore ed è composto da un percorso punteggiato da foto in bianco e nero e a colori e da tracce audio registrate a guida della riflessione in chiave di scoperta dei confini da superare a Santa Maria la Longa nel parco del piccolo Cotolengo Friulano nel pomeriggio. Settima edizione per il torneo giovanile di beach rugby in calendario oggi e domani, a cui parteciperanno circa 500 giovani atleti di 17 squadre di mini rugby provenienti da diverse città del Triveneto. Le categorie saranno quelle adottate dalla Federazione Italiana Rugby, cioè under 7, under 9, under 11, under 13, under 15 e under 17. Appuntamento a Lignano Sabbiadoro presso il lungomare Trieste. Il ciclo di conferenze naturalistiche Passeggiando si impara prosegue con un appuntamento condotto dallo zoologo dei Musei Scientifici di Trieste, Nicola Bressi, e dedicato ai calabroni. Si spiegherà quanto sono pericolosi, se è meglio combatterli o conviverci e quali sono le differenze con api e vespe. L'appuntamento è a Trieste, nel parcheggio della ciclo pedonale Cotturi in via Gramsci alle 17.45. Domani mattina alle 6.05 su queste frequenze ritorna la rubrica della TGR curata dalla nostra redazione Est-Ovest. In sommario un servizio sulla situazione politica in Montenegro, Kosovo e Serbia, a cui seguirà un altro servizio su un gruppo di antropologi sloveni e croati coordinati da Ursula Cebron-Lipovec, che sta preparando un dizionario della rotta balcanica. Avremo poi un'intervista con Sergio Taucciar, voce storica di TV Capodistria, e infine lo storico Michele Sarfatti, che parlerà del suo libro I confini di una persecuzione, il fascismo e gli ebrei fuori d'Italia 1938-1945. L'appuntamento sulle frequenze di Radio Rai 1 alle 6.05. E domani, dopo il primo giornale radio del mattino su queste frequenze, ritorna la nostra rubrica dedicata all'agricoltura, vita nei campi. Sentiamo quali saranno gli argomenti della puntata. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura, ruolo e stato di conservazione dei prati stabili. A seguire la non sempre facile gestione delle oleaginose nelle pratiche biologiche, nella rubrica del vino la fermentazione alcolica nella macerazione del pigiato, e avremo poi per la rubrica dei forestali il rapporto gestione dei grandi carnivori nei nostri boschi, a seguire tutto quello che si deve sapere per la coltivazione nostrana delle angurie e per la rubrica della gastronomia un piatto storico di stagione, risi e bisi, alias ris e cesarons. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Si conclude qui questa seconda edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.